Siamo in linea con il vicepresidente di Reporter Senza Frontiere della sezione italiana, Domenico Affinito. A lui vogliamo chiedere le difficoltà che incontrano oggi i giornalisti di guerra e avete prodotto recentemente un documento sull'attacco americano, possiamo dire, all'Hotel Palestine. Le difficoltà maggiori sono che il più delle volte non viene riconosciuto, tranne per i giornalisti embedded, lo status di giornalista, cioè fare giornalisti su un territorio di guerra diventa molto difficile perché si ha difficoltà intanto a trovare notizie certe e poi spesso si rischia anche la vita. Questo non vale per i giornalisti embedded perché invece quantomeno per quanto riguarda la sicurezza sono tutelati. Sul discorso invece delle notizie anche lì c'è sempre un filtro molto molto forte. Reporter Senza Frontiere ha anche preparato un'inchiesta sull'incidente dell'8 aprile del 2003 quando a Baghdad all'Hotel Palestine furono uccisi tre giornalisti con un colpo di mitragliatrice sparato da un carro armato americano. E in questa inchiesta RSF, la prima inchiesta tra l'altro è datata 11 aprile e poi conclusa nel maggio 2003, quindi già un anno fa, noi avevamo accertato una serie di responsabilità quantomeno politiche nella scala gerarchica militare americana. Adesso c'è stata un'inchiesta invece per quanto riguarda l'esercito americano, si è conclusa e noi non siamo soddisfatti di questa inchiesta perché l'inchiesta ha di fatto sollevato i responsabili. Ricordiamo che sono 46 ad oggi i giornalisti che sono morti in Iraq e voi avete classificato l'Iraq come il paese più pericoloso al mondo per i giornalisti stessi. I due giornalisti sequestrati in Iraq, che sono di nazionalità francese, se non mi sbaglio, sono al 91° giorno. Non so se voi avete delle notizie più fresche rispetto a quelle che la stampa nazionale e internazionale pubblica. No, non abbiamo notizie più fresche, ormai non si sa più niente da giorni. Ricordiamo che oltre a Christian Chesneau e Georges Malbruno risulta ancora sequestrato anche un loro assistente, Mohamed Al-Jundi, anche lui sequestrato da oltre due mesi ed era uno di quelli che noi definiamo media assistant. Si attende qualcosa, insomma, si attende che arrivino notizie, speriamo siano positive. Poi ci sono tanti giornalisti invece nel mondo incarcerati secondo noi ingiustamente perché hanno svolto semplicemente il loro lavoro. Noi il 24 novembre dedicheremo la giornata proprio a questi giornalisti. Sì, e che tipo di iniziative pensate di mettere in atto il 24 novembre? Noi chiediamo ai giornali del mondo di adottare questi giornalisti, adottarli come? Parlando della loro storia, per una giornata ricordarli e ricordare che sono in carcere. Ce ne sono di famosi, da Raul Rivero a Cuba, che ha preso 20 anni per un reato di opinione, Vintin in Birmania, Gao Qingrong in Cina, Riccardo Alfonso, sempre anche lui a Cuba, e Reza Aljani in Iran. Lui tra l'altro, quest'ultimo, il caso è particolarmente tragico perché lui è in carcere dal 14 giugno 2003 senza alcuna imputazione, cioè le autorità giudiziarie iraniane non hanno comunicato a tutt'oggi un'imputazione.